forte, Dio, sì. Uno, via. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Allora, in quello spazio ci vorrebbe dire la bicicletta da corsa. Poi racconto un po'. Allora, la prima bicicletta non era da corsa, era, c'aveva il cambio, il manubrio fare, era quella con, da un premipago, no? Nuova, e quella che andava a scuola. Dopo la quinta elementare andava alla via Menta Empoli, no? E allora che mi venne in mente? E dissi, siccome lì a Santa Maria, ora è diversi anni è chiuso, c'era un meccanico che le vendeva, le riparava, mi venne in mente, ma se il manubrio tutto lo fa cambiare, no? Ce lo metto da corsa, insomma mi fece per queste cose lì, no? Sicché mi sembrava di avere andavo a Firenze, io Empoli Firenze in bicicletta, sì. Metteresti qui la bicicletta? Sì. E che... non cambia manubrio, ma no. Basta girare proprio il manubrio così e si cambia, si cosa. E sulla canna c'era una cosa lì, tutte le anatre, era proprio bella. Non era rossa, era blu, perché io ho cambiato un po' colore da quando... Sempre c'è così il rosso, sì, è vero. Anche se ho avuto una sola macchina, rosso, arancione. Ma hanno avuto altre, però la mia bicicletta, sì. Beh, ti potrei dire la 500, ti potrei dire qualsiasi cosa. Mi viene a mettere solo la bicicletta, perché ora qui non si va più in bicicletta. Mi piaceva tanto. Un bel cane. Piccino, voleva i biscotti, io facevo colazione a casa. Nella terrazza una cestina con la coperta, lo coprivo bene, mi sembrava di avere un figliolo, mi vedevano da casa. Era biscotti mia, anche Fubbo. E sono quei biscotti rotondi con la cioccolata, solo le goccioline. Un bel fagliato fatto, sai che questi artisti a Firenze li facevano tutti fatti a mano, fatti da acciaio, ci lavoravano per farli, ci mettevano questi, fare un oggetto in quel modo. C'erano parecchi questi vetri da Firenze, fatti da acciaio, insomma, fatti a tutti, dopo colorati, tutti fatti. Quello è il capolavoro che fate. Il fondo di una pallottola l'aveva portata dall'Africa in mio babbo. Tondo perché era un coso di mortaio, sicché era grosso così, tutto cesellato, e sopra c'era il tappo che si apriva, si metteva sul settimino dove si trovava e si doppiava il piumino. Poi dopo, ma quella costava tanti soldi, era una bicicletta da corsa, era una marca famosa, Masi, che la facevano a Milano, però io la trovai da un corridore che smise di correre, no? Ma era tipo di come nuova, La ricordo, insomma, presi l'appuntamento, e a quei giorni quanto la pagai? C'era le vecchie lire, 30.000 lire, Io? No, aveva con soldi mia. Non avevo, mi pare, incominciato ancora a lavorare, No. E con questa bicicletta andavo anche a Pistoia, in po' di Pistoia, la salita di San Baronto, fa tutta l'ascesa. Il letto. Come mai? Perché mi garba, perché è bello, ci sto meglio che questi qui, questi sono letti. Ma non per dormire, perché dormire mai. Che mi piace. Un bel lettino fumato. Mi piace vederlo. Bene, ma allora è così. È un tagliere, perché allora si usavano per fare battuti, tagliare la carne. Non c'erano gli elettrodomestici, si adoprava tutto così. E perché proprio il tagliere, per raccontarti? Perché mi ricorda di battuto, che fare il sugo, dei conigli si spezzavano con la mannaia. Insomma, era un pezzo di legno, ma mi ricorda queste cose. Il sapore veniva fuori quando si usciva la roba. Crostini della mia mamma non si possono dimenticare. Il sugo sul coniglio specialmente era buono. E poi l'arrosto in forno della mia mamma. E mi diceva, quando tu fai la roba col pelo, mettigli là il rosmarino e aglio. Invece a quella con le penne ci vuole la salvia e aglio. No. Siete d'accordo? Due, uno, via! Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Una passione avevo io per i civili. Avevo anche mio babbo, Babbo, mamma mia. Quando c'era il Giro d'Italia si metteva in casa. Perché al circo la Santa Maria mi diceva sempre, perché chi chiacchiera, chi cosa, invece in casa me lo guardo tutto. È uno sportivo mio babbo, Grande persona, grande uomo. E tempo fa lo sognai anche. A mia mamma ho sognato ultimamente, ma a mia nonna.